Bambini tra i 6 e gli 8 anni vengono utilizzati come manodopera per la trasformazione delle foglie di coca in pasta base della cocaina. La loro salute viene così esposta agli effetti nocivi causati dalla fermentazione delle foglie di coca contenuta nei pozzi a macerare. La denuncia con video che vede i bambini all'opera arriva dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Vita Senza Droga con sede a Lima. E a Budapest l'inquinamento aggredisce bambini perfino quando ancora si trovano nel ventre materno. La denuncia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità all'apertura della quarta conferenza sull'ambiente in questi giorni a Budapest. Inoltre, secondo Legambiente, presente alla conferenza, i rischi per la salute dei minori aumentano anche per la presenza in percentuale del 15% dell'amianto negli edifici pubblici e per la vicinanza delle scuole e asili nelle discariche antenne radiotelevisive. Legambiente boccia anche il sistema scuola in termini di sicurezza, in quanto oltre la metà degli edifici pubblici manca di certificati di agibilità statica e igienico-sanitari. A Cancun un bambino di 4 anni è stato accusato di stupro nei confronti di una sua coetanea ed è stato allontanato dalla famiglia per ordine di un giudice e affidato a un centro per minori disadattati. Il fatto è avvenuto in un asilo di Cancun e, secondo una TV privata, il bambino sarebbe stato prelevato da almeno 4 pattuglie di polizia dopo aver ricevuto la denuncia della madre della bambina. Un medico, dopo aver visitato la piccola, ha dichiarato di averle trovato un piccolo graffio nelle parti intime. Per un sessuologo interpellato dopo il caso, si tratta di aberrazione. Il bimbo stava compiendo un gioco di esplorazione, attività normale per la sua età. Nardino Cosmai, reporter associati a Amsnet.